Il capo della cosiddetta opposizione israeliana è Lapid, di cui ricordiamo l'attacco preventivo a Gaza contro membri della Jihad islamica, con l'omicidio di 15 palestinesi, tra cui una bambina di 5 anni. Che cosa vuol dire e che cosa comporta in Israele il fatto di stare davvero all'opposizione, e cioè dalla parte dei palestinesi? Ce lo dice in una intervista Guy, un israeliano che fa parte dell'organizzazione Ta'ash, che vede impegnati israeliani e palestinesi con metodi non violenti contro l'occupazione militare israeliana. Magari chiediamo innanzitutto il modo in cui lui ha preso coscienza della situazione palestinese e della ignoranza della situazione palestinese da parte degli altri giovani e giovani ebrei, in particolare quando lui era a scuola. Prego. So most of Israelis, especially the young one, don't know Palestinian at all, not in person, because there is the wall, so most of the Palestinian cannot enter, and the only Palestinian that can I see. giovani israeliani non conoscono per nulla la condizione dei palestinesi, in quanto c'è il muro da cui i palestinesi non possono accedere a Israele e i soli palestinesi che vengono in Israele sono quelli che lavorano come dipendenti nell'edilizia o in altri lavori manuali. La maggior parte dei palestinesi non sanno l'ebraico e gli ebrei non sanno l'arabo, per cui non vi è relazione. La sola conoscenza che i giovani ebrei hanno dei palestinesi è attraverso i media, i quali demonizzano i palestinesi e li descrivono come nemici. And on the other hand, how did you have the opportunity to understand which the real situation? E per quanto riguarda te invece, com'è che hai potuto renderti conto di quale fosse in realtà la situazione ed acquisire una diversa consapevolezza? So I knew Palestinians since I was very small child because my father used to work with Palestinians. And I knew them as human beings. I knew them as friends, as co-workers of my father. We went to their homes, we went to their villages to see them. Io ho They used to avuto come to l'occasione di our conoscere direttamente dei palestinesi in quanto mio padre lavorava con palestinesi e allora li conobbi come esseri umani. Loro frequentavano la nostra casa, andavo a visitarli a casa loro, a conoscere il loro villaggio e così li conobbi come persone ed esseri umani. Now. The second question is about your organization and the difficulties it finds in the activity. Una domanda And riguarda la vostra organizzazione, il vostro gruppo. Quali sono le attività che svolge e com'è che hai deciso di lasciare Israele? so, I'm part of a movement called Ta'ayush. We are active on the ground, mostly in South Ebon Hills. And most of the Israelis, I mean, more than 95%, and also Israeli authorities, see us as an obstacles for the occupation. They don't want us on the field, Faccio they parte don't di un want movimento che si us chiama Caius e siamo presenti nei territori occupati, tra cui al Tawani, dove cooperiamo con Operazione Colombia e dove abbiamo conosciuto anche Laura di Assopace Palestina. La maggior parte degli israeliani, il 95%, sono favorevoli all'occupazione. Non vogliono che noi stiamo nei territori occupati, non vogliono che nessuno sostenga i diritti palestinesi, che nessuno raccolga e diffonda informazioni e documenti su quel che succede nei territori occupati. Yes, which kind of menaces you received and or violent events in your organization? tipo di minacce hai ricevuto e quali difficoltà incontra la vostra organizzazione? Both violent, severe violence towards activists. It could be attacking, breaking cameras, breaking phones, hitting. I myself been injured many times. Twice they broke my arms. Authorities try to criminalize us. Siamo oggetto di violenze fisiche, pestaggi, distruzioni o sequestro di strumenti di documentazione, macchine fotografiche, telefonini, cineprese, tentativi di criminalizzarci, spesso arrendendoci. Personalmente sono stato aggredito più volte. Due volte mi hanno rotto un braccio. Now you are still in connection with your organization in Israel. How are they acting presently? Sei tuttora in relazione con la tua organizzazione e come stanno operando in questa circostanza? So I'm connected to the people on the ground 24/7, both activists and Palestinian resident. Situation is horrible. Especially since the 7th of October, situation changed dramatically because there are no red lines, no rules whatsoever. The rule is who is having the gun is ruling and doing whatever they like. Sono restato in contatto sia con attivisti israeliani che con residenti palestinesi. La situazione è orribile dopo il 7 ottobre. Non c'è più legge. La legge la fa chi porta un'arma da fuoco, cioè i coloni. I coloni fanno tutto ciò che vogliono. I palestinesi sono sotto assedio. Spesso non possono neanche uscire di casa. Non possono coltivare i loro campi, né raccogliere le olive. I bambini non possono andare a scuola. Yes, another question. Your organization are enabled still to go to Palestinian land, to the West Bank? Un'ultima domanda. Voi della vostra organizzazione, che agibilità avete nel territorio? Potete recarvi liberamente nei territori occupati? Partly we can go. We cannot enter all the areas, we cannot enter all the communities. There are communities that already left their homes because of violence and threat. There are a lot of blockades and checkpoints, and both Palestinians and activists been harassed on a not only daily basis, on a hourly basis, been detained, been chased away, been attacked. So it's very, very hard to act on the ground. Solo in parte. Ci sono zone dove non ci è consentito di recarci. Ci sono comunità che hanno ormai abbandonato le loro case a seguito delle violenze dei coloni. Ci sono gli impedimenti dei checkpoints. C'è peraltro il moltiplicarsi di richieste di aiuto alle nostre organizzazioni da parte di comunità palestinesi che si trovano sotto attacco dei coloni. Thank you Guy, thank you a lot and have a good and nice day in Italy. Thank you. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني.